9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 27 gennaio e innanzitutto un pensiero iniziale della trasmissione al giorno della memoria ai nostri carissimi fratelli ebrei, a tutti coloro che hanno, noi per primi, perché facciamo informazione, il dovere di ricordare ciò che è stato, il motivo di ciò che è stato, le forme in cui è avvenuto, la cosa terribile che ci mette di fronte a ciò che siamo davvero come uomini capaci di fare. Buongiorno della memoria a tutti e al tema della giornata. Il tema della giornata è un tema un po' in controtendenza rispetto, diciamo, all'ottimismo che da qualche mese a qualche parte chi fa mestiere di informazione economica è un po' tenuto ad avere, e io sono abbastanza d'accordo, perché sicuramente si esce dalle crisi anche contribuendo alla creazione dell'ottimismo che sul mercato indirizza le scelte, le aspettative. Però quando poi i dati di fatto sono i dati di fatto, è anche vero che ogni tanto bisogna interrompere questo flusso dell'ottimismo, fermarsi e tentare di ragionare e capire i dati che i mercati ci mandano nella loro oggettiva freddezza, e tentare di capire anche, poiché viviamo in un contesto iperglobalizzato, poiché grazie al cielo, malgrado la durissima botta del 2009 in cui il commercio mondiale ha perso il 15%, la globalizzazione non si è fermata e le previsioni sono che quest'anno il commercio mondiale riprenda, diciamo, più della metà di quello che ha perso nel 2009, cioè possa crescere anche fino al 9%, ciò malgrado la botta resta molto forte, e la botta in paesi come l'Italia, ricordiamolo, fine dicembre del 2009 la produzione industriale italiana era arretrata della bellezza di 100 trimestri. Questo significa, in parole povere, essere tornati indietro a 25 anni fa come produzione industriale, e quindi significa avere una previsione di fronte a noi di un lasso di tempo lungo prima di recuperarla. Allora, oggi tentiamo una riflessione che parte innanzitutto dall'Italia e si allarga però poi anche ad alcuni punti deboli, irrisolti del contesto internazionale in questo mercato globalizzato. E avete sentito dal giornale radio, dalla voce della nostra Deborah Rosciani, dalla borsa, come la borsa oggi sia, come da diverse sedute che si succedono, orientata con un segno negativo. Siamo nel corso di un riaggiustamento anche di ciò che i mercati azionari dall'aprile del 2009 avevano innanzitutto invertito il segno terribile della crisi e avevano fatto pensare mese dopo mese a una ripresa. La ripresa c'è, ma i suoi segni sono contraddittori. Iniziamo innanzitutto a occuparci di un grande segno di contraddizione venuto ieri dalla Fiat. La Fiat il giorno prima ha presentato i conti, 850 milioni di perdita come holding, ma comunque un utile operativo consistente. Due terzi dell'utile operativo però retrocesso agli azionisti, oltre 230 milioni retrocessi agli azionisti come dividendo. C'è chi pensa un po' troppo, io stesso a dire la verità, in queste condizioni. E poi l'indomani, cioè ieri, la decisione a freddo di 2 settimane di cassa integrazione per tutti i 30.000 dipendenti dell'auto in Italia. Sono 22.000 e qualche cosa operai, e gli altri sono gli amministrativi. Dal 21 di febbraio al 7 di marzo, 2 settimane di cassa integrazione. Allora, che cosa vogliono dire queste 2 settimane? Come mai il giorno prima l'ottimismo sui conti, sottolineare che l'utile è comunque forte, che il contributo dell'auto ai conti della Fiat è comunque positivo come gestione, che c'è la grande sfida Chrysler, di cui sapremo tra poco gli aggiornamenti del piano industriale, e poi il giorno dopo, pif, a freddo, dire 2 belle settimane? Vediamo un pochino che cosa ci dicono due ospiti. Uno ci accompagnerà in tutto il corso della trasmissione e uno lo sentiamo per questo primo aspetto. Vi presento, innanzitutto è con noi Stefano Cingolani, editorialista del Foglio, di Panorama, giornalista economico di lungo corso e grande professionalità. Buongiorno Cingolani. Buongiorno a voi. E Giorgio Cremaschi, segretario nazionale della FIOM. Buongiorno Cremaschi. Buongiorno, buongiorno. Ecco, io innanzitutto comincerei da lei, Cremaschi. Lei come l'ha presa questa notizia delle 2 settimane di cassa integrazione Fiat? Naturalmente male, ma onestamente, siccome, diciamo così, non vedo appunto quel quadro ottimistico, no? Che oggi, che fino adesso, come lei descriveva giustamente, come anche un'operazione di investimento psicologico-economico, siccome questo quadro purtroppo non c'è, anche non proprio totalmente sorpresi, cioè nel senso che è evidente che noi siamo, io capisco quello che lei diceva prima, cioè dicono gli economisti, bisogna evitare che le profezie negative si avverino e quindi bisogna non parlarne, e quindi si capisce che fino a un certo punto si mandano messaggi ottimistici, però la realtà prima o poi, se va proprio da un'altra parte, emerge, e la sostanza è che noi, è vero che abbiamo qualche segnale di ripresa produttiva, ma come si dice, stiamo camminando sul fondo, cioè stiamo a un livello per cui i segnali che abbiamo al massimo sono che si è fermata la caduta, ma si è fermata la caduta di un sistema industriale che lavora sostanzialmente, almeno nel nostro paese, al 70-75% delle sue possibilità. Che vuol dire, cioè, che c'è un 20-25% di non utilizzo delle capacità produttive, il che vuol dire che, per fare un'ulteriore conseguenza, che ci potrebbe essere un 20-25% dei lavoratori che rischiano di essere esuberi, come si dice tecnicamente, cioè di essere in più. Quindi qui siamo di fronte a questa situazione. I messaggi troppo positivi lanciati dal governo, e lo dico stranamente perché di solito succede il contrario, anche dalla Confindustria, che in questi mesi ha avuto un atteggiamento davvero un po' contraddittorio, perché sul piano generale ha detto stiamo uscendo dalla crisi, poi noi incontriamo tutte le aziende della Confindustria che ci dicono che va malissimo, persino con le aziende del gruppo Marcegaglia, in questo momento noi stiamo trattando cassa integrazione un po' in tutti gli stabilimenti, quindi diciamo che siamo e anche previsioni non ottimistiche, cioè nel senso che nei principali settori, sai, il settore metalmeccanico fa un po' capire come va, perché da lì parte poi tutto il sistema industriale, sì, i metalli, i componenti di base, fino all'automobile, fino ai frigoriferi, eccetera. E beh, insomma, tutte le previsioni dicono, sono previsioni a breve e comunque previsioni di, per come si dice, di chi dice al massimo arrivano dei brodini, ma un segnale vero di ripresa non c'è. D'altra parte c'è un altro dato che credo dovrebbe farci riflettere, cioè il fatto che mentre noi siamo in questa situazione, tecnicamente a livello mondiale noi non siamo in recessione, perché mi pare di vedere i dati già di ieri sera o questa mattina, di previsioni che vengono fatti dai centri internazionali, il Fondo Monetario eccetera, che dicono che il sistema mondo nel suo insieme dovrebbe crescere del 4%, e quindi come si fa, e questa è la domanda, a avere una crescita globale del 4%, che è molto alta comunque, e a vivere in questa situazione? Vuol dire evidentemente che almeno in una parte non piccola del mondo, sicuramente tutto il sistema industriale più antico, il nostro, il sistema occidentale eccetera, e dentro questo poi ognuno ha le sue disgrazie, l'Italia secondo me ne ha più di altri, noi siamo di fronte a una situazione in cui anche questo livello di crescita, che qualche tempo fa sarebbe stato considerato enorme, non produce occupazione in termini da superare le crisi sociali, soprattutto non le produce qui da noi. Quindi sì, noi siamo di fronte a, probabilmente a dei nodi che una volta si sarebbe detto strutturali, cioè il fatto che non so quanto deve crescere il mondo perché noi possiamo ripartire, evidentemente c'è un problema di qualità e quantità degli investimenti, di distribuzione della ricchezza, di programmi un po' più per il futuro e un po' meno alla giornata, cioè bisogna evidentemente non contare su una ripresa automatica, perché purtroppo questa in realtà non c'è, o se c'è avviene con una tale lentezza che ci rischia di nel tempo di farci trovare appunto tra 10 anni ai livelli dell'anno scorso, ecco. Cioè diciamo che di questa ripresa di volume del commercio mondiale, un po' più della metà di quello che si è perso nel 2009 e nel 2010, fortemente riallocata tutta verso la parte del Pacifico tra Cina e i paesi limitrofi, perché sono quei paesi che sostituiscono la domanda interna americana indebolita, che resterà debole per anni, con un commercio molto forte tra di loro, perché è domanda interna cinese quella che sostituisce progressivamente sempre di più la domanda interna americana che mancherà. In questo processo di crescita che lei ricordava, 4% stimato, 3,9 per il 2010 dal Fondo Monetario, e 4,3 4,4 per l'anno successivo. Sicuramente la sfida del nostro paese è, dicono le previsioni, fare un aumento rispetto a ciò che abbiamo perso di esportazione, più o meno pari in percentuale alla metà di quanto crescerà le esportazioni nel commercio mondiale, voglio dire, nell'anno in corso, il che significa continuare pesantemente nella perdita di volumi, ma puntare molto naturalmente che a fianco di questa perdita di volumi, che del resto contrassegna il nostro export da molti anni a questa parte, però continuare altrettanto virtuosamente, se non di più, nel processo che avveniva prima della crisi, che faceva ben sperare dell'Italia, cioè quello contrassegnato da una crescita molto intensa del valore aggiunto per unità esportata. E questo significa naturalmente capire come nel nuovo mercato cambiato strutturalmente dalla riallocazione in molte filiere verso la Cina e verso l'Asia, della meccanica per esempio, che sono quelle poi forti del nostro export, o della Fiat di cui stiamo parlando, come cambia quella curva di competitività, quei criteri di riallocazione dei fattori produttivi rispetto al fatto che noi dobbiamo fare più valore aggiunto e meno volumi. E insomma, questo poi ci porta diretti all'ultima domanda che faccio a Cremaschi. Ma non è che, mi scusi, siccome se uno oggi sul Sole 24 Ore legge pagina 2-3 si trova l'elenco dei diversi settori dell'industria italiana che si aspettano, in occasione della misura annunciata dal governo degli incentivi per il 2010 ai diversi settori industriali, che si aspettano tutti degli incentivi di sostegno? E non è che ci sia solo l'auto, naturalmente, perché c'è tessile, c'è l'arredo e il mobile d'ufficio, insomma sono diversi i settori dove questo problema della crisi dei volumi sarà un problema che noi ci portiamo avanti per i prossimi anni. Non è che la decisione secca di chiudere per 2 settimane della Fiat significa: ricordatevi, cari signori, che innanzitutto gli incentivi ce lo dovete dare a noi e basta, come sempre. Lei che dice? Sicuramente, è chiaro che una decisione così, come si dice, accumula delle perdite. Bisogna dargli gli incentivi? No, guardi, noi abbiamo una posizione, almeno il mio sindacato la FIAT è molto netta: si danno, gli incentivi sono un aiuto pubblico, quindi gli aiuti pubblici si scambiano con impegni pubblici. Se la Fiat chiude gli stabilimenti, io credo che non si debbano dare aiuti pubblici. Gli aiuti pubblici si danno in cambio, oppure se uno vuole stare sul mercato, allora sta davvero sul mercato e ne assume tutti i rischi. Ma stare sul mercato con gli aiuti pubblici e chiudere le fabbriche, secondo me, non è giusto. Questo gliela dico proprio così, perché questo è il problema che abbiamo con Fiat. Guardi, noi in questi giorni, io sono qualche mese, un paio di mesi che vivo praticamente al Ministero dell'Industria tra una crisi e l'altra, sto più lì che nelle sedi sindacali, e quando non sto lì incontriamo lavoratori che sono sulle gru, che sono sulle torri, che sono sui tetti. Noi abbiamo, ripeto, in Italia una sottovalutazione della drammaticità sociale della crisi. Questo è un punto che poi alla fine diventa economia anche questa, anche se si tenta di occultarlo. Qui siamo di fronte a centinaia di migliaia di lavoratori, spesso in situazioni economiche e sociali di contorno altrettanto difficili, cioè che per capirci se perdi un posto non è che ne trovi subito un altro, non lo trovi e basta, che rischiano drammaticamente reddito, condizioni di vita. Siamo di fronte a impoverimenti di intere famiglie, di interi territori, quindi questa è una situazione drammatica. Non dico emergenza, perché l'emergenza in Italia si usa sempre per non fare le cose, diciamo è una situazione drammatica sul piano sociale, che evidentemente deve essere anche affrontata economicamente, perché alla fine ha dei costi anche economici. Se la Fiat chiude Termini Imerese, lì si crea un buco sociale, per capirci, dove per capirci, una zona industriale con un certo sviluppo viene degradata alle zone tipo Rosarno, per essere chiari, che cosa succede sul piano dei costi economici e sociali? Allora, un grande gruppo industriale, i grandi gruppi industriali, si fanno o non si fanno carico di questo problema? È economia anche questo, oppure questo riguarda, come si dice, la mano sinistra, perché la parte destra deve pensare semplicemente a verificare il livello dei profitti che si fanno e che si fanno a livello internazionale? Questo è un meccanismo distorto, lo stiamo verificando con la Fiat, ma con un po' con tutte, soprattutto con tutte le grandi aziende multinazionali che ci sono nel nostro paese. Ormai io mi capita di incontrarne moltissime e ci troviamo di fronte alla stessa situazione. Siamo alla crisi Fiat, siamo alla crisi Alcoa, siamo al al fatto che i russi, una grande multinazionale russa, la Severstal, si è stufata di stare in Italia perché dice che guadagna troppo poco e quindi sta dismettendo praticamente tutto il settore siderurgico. Quindi siamo di fronte, potrei farne un elenco che non finisce più. Non è questo il punto. Che richiedono evidentemente un intervento e alla fine non si può che dire, la sostanza è questa: se volete l'intervento pubblico, e l'intervento pubblico è tutto, compreso anche la cassa integrazione, occorre una responsabilità sociale del sistema imprese. Bene. Se questa non c'è, noi andiamo a delle catastrofi, io questo che voglio dire. Quindi la Fiat non può dire io ho i miei problemi con la Chrysler, a Termini Imerese vedetevela voi, questo non lo può proprio fare. Allora, oggi abbiamo cominciato, io faccio gli auguri a Cremaschi per il buon lavoro, spero che ogni tanto esca anche dal Ministero dell'Industria, sennò poi a furia di vivere in posti malsani campa peggio. Auguri a Cremaschi. Però, come vedete, abbiamo cominciato con una bella botta tra il realismo e il pessimismo, perché a questo punto io devo anche dire, ormai interrotto Cremaschi, che se ogni Stato adotta poi la posizione di dare gli incentivi e di dire dove si mettono le fabbriche, dove si mantengono, la crisi dell'auto, che è una crisi, lo abbiamo detto tante volte, di sovraccapacità, qui nessuno la risolverà mai. Se facciamo tutti come Sarkozy, che per prendere gli applausi dei suoi elettori in televisione dice no, ma come, la Renault che voleva spostare la Clio in Turchia, gli ho detto neanche per idea, la mantieni qua. Allora, in ogni paese si fa così, dopodiché queste automobili io non so a chi le vendiamo. Allora, un altro punto di vista, quello di Stefano Cingolani. Cremaschi ci dà il punto di vista di una componente del sindacato, quella insomma anche più estrema, che però si batte per difendere tutto quello che c'è e per dire soldi, incentivi uguale influenza su cosa, dove, come produrre. Il problema però di questa chiusura della Fiat ci ripropone l'auto in generale come questione. Lei che pensa? Io penso che l'Europa abbia sbagliato strategia, stia sbagliando strategia. Cremaschi fa il suo lavoro e mi pare che abbia detto molto efficacemente, anche con molte ragioni, insomma, la situazione congiunturale l'ha descritta bene. E quello che però bisogna cominciare ad affrontare è la situazione strutturale. Questo è il problema in generale, poi ne parleremo. Di questa strana ripresa lenta e zoppa. Ed è una delle questioni chiave dal punto di vista strutturale, riguarda proprio l'industria dell'automobile. Secondo me gli Stati Uniti hanno imboccato una strada pericolosa ma coraggiosa, grandi interventi pubblici come abbiamo visto, ma anche una riconversione produttiva e soprattutto una riduzione della capacità produttiva. L'Europa invece sta salvando tutto, anche quello che non si tiene, insomma. Adesso l'ultima notizia è questa della Saab, nessuno, adesso non mi prendete come uno che vuol chiudere le fabbriche e buttare sulla strada i lavoratori, naturalmente. Ci mancherebbe. Ma sicuramente la Saab, non si sa se non è mai stata in piedi, nonostante ci fosse la General Motors. Adesso viene salvata, sì, certo c'è l'intervento di capitali privati, ma c'è un grande prestito della BEI e della Banca Europea degli Investimenti, senza il quale non sarebbe stato possibile tutto questo. La Opel vedremo, la Opel deve ridurre la capacità produttiva, vedremo adesso quali piani verranno presentati dalla General Motors che l'ha mantenuta, ma sicuramente, come abbiamo visto, i tedeschi hanno alzato la bandiera contro qualsiasi riduzione in territorio tedesco e così via. L'ha detto anche Marchionne, su questo ha ragione, c'è un eccesso di capacità produttiva in generale nel mondo industrializzato e in particolare in Europa attorno al 30%, 25-30%. Come lei diceva, bisogna ridurre i volumi e aumentare il valore, e quindi questo è il grande problema che abbiamo davanti, e tutto questo può essere fatto con gli incentivi pubblici, grande punto interrogativo. Secondo me gli incentivi dati in questo modo non possono funzionare, non sono incentivi, è pura assistenzialismo. Ma non servono a drogare il mercato, che poi noi continuiamo a darli, poi giustamente appena scadono gli amministratori delegati come Marchionne dicono se non ce li dai io come faccio? Però a furia di dare droga, non è che sono vendite indotte semplicemente, anticipate di anno in anno, indotte quando la gente non le farebbe, io è questo quello che non capisco. L'alternativa è in Europa la Germania, che non bissa gli incentivi ma difende la natura, diciamo così, tedesca degli impianti e delle aziende che ci sono. E comunque ricordiamo, lì fabbricano milioni e milioni di automobili malgrado costi più elevati dei nostri. La Francia, che dà gli incentivi e anche in quel caso difende la nazionalità dei suoi stabilimenti, noi che a questo punto dovremmo fare o l'una o l'altra cosa, ma partendo da un livello di produzione che è molto più bassa. La domanda da cui ripartiremo poi è se non ci convenga fare un'altra scelta, visto che da noi non è più convenuto a nessuno produrre più di 650.000 veicoli l'anno, perché l'abbiamo fatto fare a un solo produttore. Forse ci converrebbe di più fare come la Gran Bretagna, dove se ne produce più del doppio che da noi, anche se non c'è più un grande produttore, perché si sono aperte le possibilità a farlo ai concorrenti. Questa è la cosa che per me resta aperta nel nostro paese, e che, ripeto, la semplice ricatto minaccia chiudo se non mi dai l'incentivo continua a non farci risolvere. Diamo droga al mercato e ci teniamo un solo produttore che fa il più della propria produzione e tutti i margini altrove nel mondo e non nel nostro paese. Eccoci tornati qua in studio, allo studio di Milano, Radio 24. Abbiamo cominciato da questo forte doccia fredda venuta dalla Fiat con l'annuncio delle 2 settimane di cassa integrazioni. È ovvio che qui si tratta di trattare ruvidamente con il governo per tentare di concentrare per sé, ottenendone il più possibile, quel po' di incentivi pubblici che arriveranno entro un paio di settimane con la nuova misura del governo. Ricordo che l'anno scorso fu praticamente sull'auto e sugli elettrodomestici, ma congegnato in maniera tale che praticamente solo sull'auto ha avuto effetto, e ha avuto effetto perché ce ne siamo occupati più volte. Come abbiamo visto, il mercato 2009, le vendite dell'auto in Italia è andato oltre 2 milioni e 100 mila pezzi, in buona sostanza grazie agli incentivi, ed è quindi di nuova droga che stiamo parlando da dare al mercato per alzare i consumi, perché altrimenti si chiudono le fabbriche, ciascuno si difende le sue fabbriche, poi a chi li vendiamo tutta questa sovraccapacità produttiva non si capisce. Però è il loop di cui l'Europa continua a essere prigioniera, mentre negli Stati Uniti è vero tantissimi denaro del contribuente ai grandi gruppi automobilistici, ma diminuzione della capacità produttiva per alcuni gruppi nell'ambito del 25-35% degli impianti degli occupati, quindi una fortissima riduzione. Guardiamo altri segnali però, iniziamo da Londra. Ieri i dati dell'andamento del prodotto nell'ultimo trimestre 2009, dopo 6 trimestri consecutivi di segno meno, quindi fortissima recessione per il paese più colpito severamente, perché ovviamente essendo la crisi partita dall'industria finanziaria e dall'intermediazione creditizia e immobiliare, ovviamente essendo il paese in cui si concentrava la parte alta di questi servizi finanziari e bancari, è il paese più colpito, e dopo sei trimestri, voglio dire, di segno meno di recessione, e l'uscita dalla crisi con un segno più nell'ultimo trimestre del 2009, ma un segno più che delude tantissimo, perché si tratta di uno 0,1% in tutto, con un andamento proprio dei servizi ancora molto preoccupante. E ancora quindi un paziente dal polso molto debole il Regno Unito. Lo vediamo parlandone con Marco Niada. Buongiorno Niada. Buongiorno. Niada, il nostro ascoltatore, lo conosco benissimo, ha fatto per molti anni giornalista che seguiva vicende economiche e finanziarie, e si è fermato a Londra, infatti il nuova veste come consulente di società pubbliche relazioni alla City. Innanzitutto partiamo dal dato di questo ultimo trimestre 2009. Come batte il polso del Regno Unito? Ma come dicevi tu, batte debolissimo. Infatti è stato un po' accolto, più che con sollievo, con scherno, questo dato dello 0,1. Prima di tutto perché ci si aspettavano 0,4, che comunque è già una miseria di per sé. Ma il fatto che a partire da questo mese l'IVA salirà dal 15 al 17,5%, il fatto che questo 0,1 può essere corretto un po' su o un po' giù, come sempre avviene con i primi dati che vengono dati, quindi può andare giù a uno 0, non meno 0,1, e il fatto ancora che l'economia inglese abbia avuto sostegno, questo 0,1 abbia avuto sostegno dalle vendite natalizie, che adesso non ci siano più soldi, fanno già pensare e dire a molti che il prossimo trimestre probabilmente ci sia a rischio di nuovo di tornare in recessione, o almeno se di continuare a strisciare sul fondo del barile. Ecco, questo è un po' il problema della Gran Bretagna. Non ci sono in questo momento grossi segnali di possibile ripresa. È stato divertente perché ieri il famoso Bill Gross, che è il cofondatore del fondo PIMCO, un fondo obbligazionario, uno dei guru della macroeconomia, ha detto che i titoli di Stato inglesi giacciono su un letto di nitroglicerina e ha sconsigliato tutti da comprarli. Questo dice lunga, questo è un paese che ha un indebitamento incredibile, il deficit britannico a causa della manovra del governo per salvare le banche è salito da 40 a 178 miliardi di sterline nel giro di 16 mesi e da questo deficit bisogna rientrare. Quindi l'altro ultimo rischio che c'è all'orizzonte è che, dato che non si può tagliare le tasse e dato che bisognerà continuare a mantenere la spesa abbastanza alta, c'è anche il rischio che i conti pubblici vadano completamente fuori carreggiata. L'andamento delle banche, che sono in Gran Bretagna insieme agli Stati Uniti il paese al mondo che ha visto la maggior concentrazione di risorse pubbliche a spese del contribuente per tenerle in piedi, l'andamento delle banche come sta andando in quest'ultimo trimestre dell'anno, come è andato da quel punto di vista? Ma guarda, ci sono polemiche enormi perché le banche sono andate benissimo, però come molte persone di buon senso hanno fatto rilevare, quando ti trovi in un contesto macroeconomico per cui tu dai ai risparmiatori un tasso al massimo dell'1% e da parte tua prendi il 7%, c'è una tale forbice fra tassi attivi e passivi che anche un sommario è capace di far soldi. Quindi quello che è avvenuto è che le banche si sono trovate in una congiuntura estremamente favorevole, hanno ricominciato a distribuire bonus, per questo ci sono polemiche furibonde come in America, come dappertutto, ma c'è poi il rischio che con l'anno prossimo, con una ripresa dell'inflazione, di nuovo un aumento dei tassi, eccetera, il clima non sia poi più così favorevole. Comunque, in due parole, per rispondere alla tua domanda, le banche stanno andando molto meglio, stanno ripagando i debiti e quindi dalla crisi sono uscite, quindi il rischio di un tracollo sistemico di tutta l'economia è stato superato, però come ha fatto notare vari economisti, qual è il problema? Il problema è che la Gran Bretagna non può permettersi una seconda, se ci fosse mai una seconda bolla finanziaria, non può permettersi mai più una seconda manovra come quella che è stata in precedenza a spese dei contribuenti. I soldi sono finiti, ci vorrà probabilmente almeno una generazione per rientrare dai debiti, non si può rifare una seconda massa di debiti del genere, per cui da questa recessione si uscirà lentamente. Ci sono, va detto, anche per segnali di ripresa nella City, nel mio settore delle pubbliche relazioni finanziarie inizio a vedere che iniziano ad esserci segnali di nuovi management buyout, alcune segnali di vivacità sul fronte delle fusioni e acquisizioni, i fondi di private equity iniziano a pensare nuovamente di entrare in azione, quindi diciamo questi sono tutti, come poi sai tutte le borse hanno anticipato questa ripresa da un anno, sono andate molto bene, però la situazione è estremamente fragile. E forse hanno anticipato, ma diciamo, poiché per chi segue professionalmente l'andamento delle borse era evidente che si è trattato di un fenomeno fortissimamente alimentato dalle operazioni sui mercati aperti della Fed e delle autorità monetarie. In America hanno fatto il ragionamento che siccome il reddito disponibile da lavoro era in fortissima contrazione, lo sarebbe rimasto per anni vista la disoccupazione, visto che la componente di reddito disponibile delle famiglie da attività immobiliari sarebbe stata in contrazione anche lì per anni, non si poteva che sostenere quantomeno la parte di reddito di provenienza dall'equity, cioè dall'investimento nei mercati finanziari. Come sapete tutti in ascolto, nel caso degli Stati Uniti si tratta di una percentuale molto elevata, tra il 68 e il 70%, non è bassa come da noi. E in base a questo gli indici sono andati su. Ma è chiaro che se siamo in presenza in quest'anno di fortissimi riaggiustamenti dei mercati finanziari, come molti iniziano a pensare, visto che non si può continuare a strappare verso l'alto i prezzi delle aziende ben oltre gli utili attesi, perché altrimenti arrivano delle trimestrali che iniziano a deludere tutti e poi si va su. Allora, in quel caso, come si fa a sostenere una intermediazione bancaria senza cambiarne le regole. Questo è un po' un punto anche che il governatore di Bank of England, Melvin King, ha consegnato prima di tutti oramai un paio di mesi fa, dicendo spacchiamo le banche e torniamo a distinguerle tra banche commerciali e con dei ratios patrimoniali, dei capitali di vigilanza più rigoroso, perché in quel caso li salveremo perché sono denari dei depositanti, dalle attività di banche di investimento che invece possano fare acquisti di azioni, obbligazioni, futures sulle commodities, su valutare, su quello che vogliono, ma insomma non lo devono fare con i denari dei depositanti, e potendo contare poi sul fatto che con i denari dei contribuenti vengono salvate. Vedremo, perché il dibattito è aperto. Non c'è solo la Gran Bretagna, non c'è solo il Portogallo e la Grecia, di cui abbiamo già parlato come paesi deboli dell'Europa, c'è anche la Spagna, di cui tendiamo a occuparci solo di solito per la percentuale molto elevata dei disoccupati, ma anche qui il problema forse risolto più grave è un altro. Ne parliamo con Michele Calcaterra, corrispondente del Sole 24 Ore da Madrid. Buongiorno Calcaterra. Buongiorno. E anche a lei chiederemo in realtà di fare una riflessione più che sulla solita cifra molto grave e preoccupante dei disoccupati, ma sul punto vero irrisolto, di cui poi si parla un po' meno in Italia, cioè come va l'esposizione sulla fortissima bolla immobiliare spagnola da parte degli operatori bancari spagnoli. Non è che anche lì abbiamo messo sotto il tappeto un problema sperando che la ripresa non ci obblighi ad affrontarlo? Ma sicuramente è uno dei punti caldi della Spagna, uno dei grossi problemi, nel senso che l'esposizione degli operatori immobiliari con il sistema creditizio assomma 350 miliardi di euro, e ripeto 350 miliardi di euro, una enormità, tant'è che quest'anno le banche stanno arrivando i dati relativi al 2009, ci sono cali degli utili che vanno dal 30-60%, proprio perché le banche hanno messo a riserva un sacco di miliardi, appunto per far fronte a una morosità e quindi a impagati che stanno aumentando a vista d'occhio. Altra cosa stanno facendo le banche, quella di aver comperato il portafoglio immobiliare degli immobiliaristi, e quindi sono diventati loro i principali venditori di case in questo paese. E la bolla scoppierà anche per quel che riguarda le banche, ma le banche più grosse, quindi parliamo di Santander e BBVA, hanno sicuramente le spalle larghe e soprattutto una diversificazione all'estero che permette di ammortizzare il problema spagnolo. Altro è invece parlare delle casse di risparmio, specialmente quelle più piccole ancorate al territorio, e lì ci sono dei seri problemi, tant'è che la Banca di Spagna e così come il Ministro del Tesoro hanno facilitato la fusione di piccole casse di risparmio, un consolidamento che dovrebbe permettere, con l'aiuto di denaro pubblico, di risolvere il problema. Da questo punto di vista, quindi, nei confronti del governo, gli spagnoli tendono ad avere un atteggiamento meno pesante rispetto al difficile 2009? Si vede qualche segno di ripresa, di un buon rapporto, oppure resta improntato a un forte pessimismo l'atteggiamento dell'elettorato? Io la sensazione che ho è che gli spagnoli di tutte le fasce sociali ne abbiano abbastanza di Zapatero, nel senso che sicuramente ha gestito bene tutta la parte, diciamo, sociale, previdenziale. Ha fallito clamorosamente per quel che riguarda l'economia e il sostegno alle famiglie. Tant'è vero, tu hai iniziato dicendo che si parla sempre di disoccupazione, venerdì ci sarà un nuovo dato della disoccupazione, ci saranno 100.000 disoccupati in più, insomma le famiglie sono veramente allo stremo, hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, sono oberati dal debito di pagare casa e tutto a rate come hanno fatto finora, e quindi sono fortemente critici nei confronti di Zapatero e di questo governo. Grazie a Calcaterra. Quindi Gran Bretagna e Spagna, oltre Grecia e Portogallo, come paesi dove il polso batte debolmente, malamente, senza troppo ottimismo. Allora, siamo tornati in studio, in questo momento mi hanno provato un'agenzia del ministro Scajola, torniamo alla vicenda Fiat. cassa integrazione non opportuna, dice il ministro per le attività produttive, rende tutto difficile. La decisione di attuare la cassa integrazione da parte della Fiat non è opportuna, in questo momento rende più difficile questa avvertenza. Non sapevamo che avesse deciso la CIG, dice il ministro Scajola, in vista del tavolo aperto su termini imerese, esprime comunque l'augurio che si possa riannodare il filo. Anche ieri il ministro Sacconi aveva dato giudizi molto critici di questo annuncio a sorpresa, che è evidente, apre la pressione dell'azienda torinese nei confronti del governo. Qualche telefonata e poi alcune considerazioni in vista delle parole che stasera pronuncerà il presidente americano sullo Stato dell'Unione con il nostro Stefano Cingolani. Sentiamo innanzitutto Fabio da Roma. Prego Fabio, che pensa? Sì, buongiorno dottor Giannino. La mia considerazione riguarda il fatto che andava di moda da quando è scoppiata la crisi fino a qualche mese fa dire che il mercato non ha funzionato, che i mercati lasciati liberi a se stessi provocano danni. In realtà io credo che sia esattamente il contrario, cioè i mercati funzionano benissimo, soltanto che quando vengono alterati dagli aiuti pubblici oppure dalle banche centrali che manomettono i tassi di interesse per favorire le banche, i mercati funzionano con una certa inerzia, cioè funzionano in ritardo, e quando funzionano lo fanno in maniera catastrofica. Quindi forse sarebbe il caso di iniziare a considerare che piuttosto che tenere i tassi a zero, come aveva fatto Greenspan per evitare una recessione nel 2000-2001, sarebbe il caso magari di regolarsi diversamente. Io non sono un economista, però non posso altro che dedurre che la recessione che Greenspan è riuscita a evitare nel 2000-2001 poi si è presentata in maniera più catastrofica successivamente. La stessa cosa vale anche per le aziende, ad esempio automobilistiche. La crisi è iniziata anche per eccesso di capacità produttiva, oltre che per eccesso di finanza, e si continua a elargire denari pubblici a aziende che in qualche modo sono decotte, e alla fine chi è che lo sconta? Sono gli stati e i cittadini che diventano schiavi grazie Fabio. Sui tassi dell'interesse avrei molto da dire anch'io penso che quella politica dei tassi bassissimi di Greenspan, chi da Chicago ha richiamato per anni e chi dalla Banca dei Regolamenti Internazionali di Basilea ha richiamato per anni sugli effetti di instabilità potenziale di quella liquidità oceanica garantita a prezzi così bassi ai mercati mondiali, che si sarebbe tradotto soprattutto poi in impieghi speculativi, è rimasto inascoltato. E anch'io penso che credere che rispondere alla crisi solo con i tassi negativi attuali sia una maniera per continuare a dare risorse finanziarie a impieghi. Basta andare sul mercato per prendere denaro a tasso negativo e guadagnarci un fracco di soldi facendo semplicemente scommesse, ma non su derivati complicati. Basta andare su un qualunque mercato monetario che dà 10 punti di interesse in più e il gioco fatto. A quel punto è un meccanismo che non c'entra niente con il sostegno all'economia reale ed è alimentato esattamente da questa illusione che con i tassi di interesse zero negativi si dia la risposta alla crisi, ma che si danno solo denari gratis al settore finanziario. Cingolani, questa sera c'è lo Stato dell'Unione, oggi apre a Davos il grande circo dell'uomo globalizzato, come lo chiamo io, cioè la 40ª edizione del World Economic Forum, fondato 40 anni fa da questo geniale professore di business, di strategia di business Klaus Schwab. E di solito fino all'anno scorso, la cui edizione fu piegata in due sulle ginocchia dalla crisi, Davos era veramente il trionfo dei grandi CEOs delle banche, delle aziende multinazionali che celebravano le magnifiche sorti progressive del mondo globalizzato. Allora, questi due eventi, la prego di fare una riflessione su cosa si aspetta che dica il presidente americano dopo la scopola che ha preso e la crisi in cui è la sua presidenza e ha iniziato ad attaccare le banche che per un anno la sua prima fila di consiglieri certo non avevano praticamente quasi toccato, al di là dei progetti annunciati alla Camera, ma non avevano quasi toccato, e cosa si aspetta che esca fuori dal Davos di quest'anno? Prego, cioè, 3 minuti di riflessione finale. Ma io mi aspetto che Obama rilanci un po', in qualche modo la svolta l'ha già annunciata, no? Si muova più su questa nuova linea che molti hanno definito populista, insomma rilancerà, ha già detto, il sostegno dei ceti medi, la classe media, un giro di vite sulle banche, e sull'alta finanza. Insomma, sì, Obama diventerà un po' più Teddy Roosevelt, se mi passa il confronto politico. Quindi l'aspetto interessante è che tutto questo significherà corsi azionari più bassi, questo, perché come si è visto, quando si picchia duro sulle banche, certo, ci scordiamo che gli indici salgano a quel punto. Però lui si presenterà come il campione della giustizia contro gli abusi di Wall Street, cosa che non ha fatto, che aveva in qualche modo accennato nella prima fase della sua campagna elettorale, poi ha cambiato passo, anche perché un po' insomma la crisi era durissima, e in qualche modo bisognava, no? Primum vivere, bisognava in qualche modo tirarsi fuori dall'abisso, e adesso secondo me rilancerà questa sua immagine, perché poi è quella che il suo elettorato chiede, e quella che il Congresso si è già spostato in buona parte su queste ma posizioni. Ma la domanda che le faccio è: inseguire Paul Krugman, che dice devi fare ancora deficit in più rispetto agli americani che gli hanno negato il voto perché dicono con tutto questo deficit ci alzerai le tasse? Io ricordo che da gennaio dell'anno prossimo negli Stati Uniti l'aliquota marginale, siccome i democratici non hanno confermato i tagli di Bush, passa sul reddito delle persone fisiche dal 35 al 39%, passa al 39% anche per i dividendi, era al 20% sotto i repubblicani, e sui capital gain va dal 15 al 20%, cioè dall'anno prossimo aumentano molto le tasse negli Stati Uniti. La domanda che le faccio è: fa il populista, fa il Captain America, non significa ancora più deficit e quindi ulteriori elettori che ti salutano e se ne vanno? Beh, il rischio c'è, il Fondo Monetario ci ha detto che questa ripresa o ripresina, insomma, quello che stiamo vivendo adesso è policy driven, cioè è tirata su soltanto dagli interventi pubblici, dalla spesa pubblica. Mi pare che non ci siano segnali forti dalla domanda per investimenti, e la domanda per consumi è sovvenzionata dai governi. Credo che Obama se ne renda conto, infatti anche qui ha lanciato un segnale, vedremo stasera poi che come lo svilupperà, questa idea di congelare le spese, insomma, anche qui non so bene come riuscire a farlo, però si rende conto che non può andare avanti con lo spendi e espandi. Quindi dovrà combinare una sorta di populismo contro i pescecani di Wall Street da una parte, per tenere quei consensi che ha perso su questo fronte, e nello stesso tempo però fare il volto dell'uomo rigoroso. Grazie. Un bel equilibrismo. Un bel equilibrismo, grazie Cingolani. Io ricordo che l'amministrazione, il GAO, l'ufficio dell'amministrazione, proprio 7 giorni fa ci ha detto che il deficit pubblico aggiuntivo di qui al 2019 disposto con i provvedimenti dell'amministrazione Obama è pari a 9.000 miliardi di dollari, cioè il 51% del GDP americano, e che aggiunto al debito pubblico precedente porta il debito pubblico americano a 92% del PIL nel 2019. Mi pare molto complicato fare questi equilibrismi. Io sarò minoritario, ma penso che tagliando la spesa e con tasse più basse sia una risposta meno drogata, più efficiente, più stabile e più duratura alla crisi economica. Ma purtroppo non governo io né in Italia né a Washington, e quindi le tasse ci tocca pagarle più alte. Bene, buongiorno della memoria ancora. Ora l'appuntamento a domani, la linea al giornale radio.